a salutarmi con un augurio, un abbraccio, una risata, una bottiglia, le ragazze, una lacrima ed un bacio. Nel bagaglio avevate due coperte, un po' di mate, una chiave dei 10 fili di ferro, una mappa, qualche libro, un paio di indirizzi, fermados, paese e con Dios. Nonostante le cadute e le rotture del motore, avete attraversato il continente, scroccato da mangiare, sofferto fretta e fame, abbandonato da moti in rottami. Hai parlato con gli indios rassegnati di impassibili, coi neros dai polmoni avvelenati, coi leprosi sepolti in ospedali giù all'inferno, e li hai portati nel ricordo con te. Addio, non perdi restallero come sei, dalle piste di Temuco alle vette di Avancai. Tieni gli occhi sempre aperti, custodisci l'ultima idea, noi ci prepariamo a seguirti. Diventato grande, comandante, vittorioso e poi ministro, e sfidato dittatori e per anni li hai beffati, e che adesso tutto il mondo ti conosce. Ma non mi piace di pensare la tua voglia di partire alla moto caricata all'impossibile, agli scherzi di Alberto e alla sede di avventura, è un bel modo per dire libertà. Il capo in linea, so che non ritornerai a quebrare lo iuro, ti aspettavano i macellai, ti hanno mostrato i giornalisti, hanno detto ecco le nuvole, regna l'ombra in Valle Grande. Transamerica, addio, dormi tranquillo perché non finisce qui, l'avventura è ripartita, resta intatta l'ultima idea.